La simbologia ed il significato delle apparizioni. Il messaggio della Vergine di Guadalupe è molto bello e profondo, pur nella sua estrema semplicità. Si notano anzitutto dei richiami all'immagine apocalittica della donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, a simboleggiare il potere che la Madonna ha sulla Chiesa, e vestita di sole, a simboleggiare la pienezza di grazia e di virtù che ha ricevuto da Gesù, sole di giustizia. La modalità con cui la Madonna si è manifestata, gli abiti, il colore della pelle ed altri particolari che vedremo nei dettagli, ha come fine quello di mostrare il suo volto materno e trasmettere un'immagine viva della misericordia di Dio, probabilmente per rettificare la brutta immagine del cristianesimo lasciata dai conquistadores che avevano portato in Messico, insieme alla nuova religione, anche tanta violenza e tanto sangue. Il fatto che la Madonna sia apparsa come una meticcia, sicuramente la sua carnagione reale non è così, e vestita come qualunque indigeno, è quanto mai chiaro ed emblematico. Sta dicendo ai messicani che ella è una di loro, e dunque essi sono preziosi, belli ed importanti per lei, e quindi per Dio, così come sono, e che ella vuole essere la loro consolatrice e madre tenerissima. Pur essendo la perfetta e sempre vergine madre del Creatore del vero Dio, che è la Santissima Trinità e non gli idoli azzechi, ella è la loro vera madre di misericordia, tenerissima, dolcissima e consolatrice di ogni afflizione. Afferma di conoscere le sofferenze del popolo azzeco travagliato e di volerle compatire e sollevare. Ordina di costruire un luogo di culto, particolare ricorrente in moltissime apparizioni mariane, perché vuole che le persone comprendano che le grazie che ivi vengono elargite provengono dalla sua intercessione e mediazione. Le apparizioni mariane, sotto questo punto di vista, rappresentano un luminosissimo esempio di teologia del luogo e dello spazio sacro, come ambiente necessario all'uomo per entrare in contatto col trascendente. Ma alcuni particolari della tenerezza di Maria possono essere colti solo vedendo nel dettaglio dei particolari la delicatezza con cui ella ha voluto parlare con i gesti prima e più ancora che con le parole. Vediamo dunque l'icona della Madonna di Guadalupe per poi contemplarne i vari dettagli. Volto della Vergine. Il volto della Vergine di Guadalupe è decisamente meticcio. Il meticcio è un incrocio tra il bianco degli europei e lo scuro degli indigeni. L'età approssimativa della giovane è di circa 16 anni. In Maria, e dunque in Gesù, si riconcilia l'umanità. Né giudei, né greci, né schiavi, né liberi, ma una sola cosa in Gesù, come disse San Paolo. Gli occhi esprimono tutta la vitalità della sua giovinezza e comunicano il suo amore. Lo sguardo è abbassato, perché nella mentalità india guardare negli occhi una persona era un gesto offensivo. Il capo è inclinato a simboleggiare che non siamo schiavi, ma figli. Raggi. Dentro la mandorla luminosa che incornicia la Vergine, partono raggi luminosi, quasi a voler annunciare la venuta di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. I suoi raggi illuminano tutto il creato. Essi sono a forma di freccia e simboleggiano l'ascesa spirituale. Bocca. La bocca della Santissima Vergine è anatomicamente perfetta. Essa è molto piccola, dall'impressione che faccia un piccolo e dolce sorriso. Mani della Vergine. La Vergine ha le mani giunte e si trova in un atteggiamento di costante preghiera per chiedere a Gesù Cristo protezione e rifugio. Si crede che le mani formino una piccola casa, la sua piccola casa, consacrata a lei. Si traduce in questa posizione la fusione e l'unione delle due culture. Le mani inoltre richiamano la cima del monte Tepeyac, coronato dalla croce di Cristo, come nel medaglione. Cintura, abbigliamento di una nobil donna. La cintura nera o fascia simboleggia nella cultura india l'attesa di un figlio. Le donne indigene si distinguono durante la loro gravidanza proprio per indossare questo nastro nero nella parte alta del ventre. La cintura termina con un angolo e richiama una figura divina. Tepel. La montagna richiama la forma di un cuore e sembra quasi formulare parole e canti come una sorta di messaggio universale da offrire a tutta l'umanità. Il Tepeyac, il cui significato è montagna o colle del cantare e del parlare divino, vede ogni 52 anni svolgersi un rito indigeno. Il Tepel ha 5 direzioni: Oriente, Occidente, Nord, Sud e lo Zenit. Manto. Rojas ha scoperto una correlazione tra le stelle del manto della Vergine e quelle del cielo nel solstizio dell'inverno del 1531. Qui sono ricostruite le costellazioni e le principali stelle. Alcune costellazioni cadono in posizioni significative: la corona boreale sulla fronte, la Vergine sulle mani giunte, il leone sul ventre gravido, Orione, il mitico gigante, sull'angelo che sostiene la Vergine. Le stelle sono 46 di 8 punte. Questi disegni dimostrano, ben visibili, gli elementi essenziali presenti sulla tilma. Qui vediamo le principali costellazioni individuate nel manto della Vergine. Occhi della Vergine. Grazie alle scoperte scientifiche più avanzate e alla tecnologia informatica, il dottor Tonsman scoprì la presenza di 13 personaggi all'interno degli occhi della Vergine. Nel piccolo diametro della cornea, esclusa scientificamente la pittura per mano d'uomo, sono visibili i protagonisti dell'evento. Nuvole. Le nuvole posizionate attorno all'immagine vengono associate dagli indigeni all'elevazione spirituale verso il divino. Simboleggiano l'arrivo di una nuova era, dove il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi. Tunica della Vergine. La tunica è di colore rosso e rappresenta il colore della terra. Contiene delle figure ricamate in oro, che è il metallo divino. Il messaggio è espresso con 9 decorazioni floreali che rimanderebbero alle 9 tribù o popoli originari dell'Aztlán. Si nota un pezzo in più di tela girata da un orlo dorato che assomiglia al mantello, i cui bordi toccano l'angelo, segno di unione tra cielo e terra. Geroglifici della tunica. I tagli degli addobbi floreali che nascono dal mantello della Vergine, simbolo del cielo, venivano dipinti dagli indigeni. Simboleggiavano il percorso dei fiumi che irrigavano i campi. Le foglie e i fiori che nascono dal taglio del fiume rappresentano il fuoco nuovo. L'acqua bruciata, invece, è una metafora della guerra. Questi simboli segnano l'inizio di un nuovo popolo che nasce da Maria Santissima, trionfante e portatrice di rinnovamento. In basso c'è un fiore non sbocciato e una foglia molto grande, che significano l'insistenza del messaggio. La tunica ha 5 varietà di fiori. Il primo di 4 petali, che è il più importante, rappresenta il piccolo sole. Il secondo con 8 fiori di 8 petali ciascuno, che rappresenta la congiunzione del sole e di Venere. Il terzo è rappresentato con 3 fiori e un bocciolo. Il quarto nasce appena dal bordo. Il quinto fiore rappresenta Venere. Fiore con 8 petali. Si notano 8 fiori con rispettivi 8 petali. Essi simboleggiano le 8 congiunzioni del Sole e di Venere, che a loro volta coincidono a 104 anni solari. L'anno consacrato è di 260 giorni, mentre quello solare è di 365. L'anno di Venere è di 584 giorni. I 3 calendari coincidono con l'apparizione della Vergine Santa di Guadalupe, avvenuta il 12 dicembre del 1531. Fiore con 4 petali. Per la cultura indigena, questo fiore posizionato all'altezza del ventre indica i 4 punti cardinali, le 4 stagioni, le 4 epoche passate, il quinto sole della pienezza, che coincide con il solstizio dell'inverno del 1531. Questo fiore richiama il luogo di Dio, o Meyokan. La Vergine è gravida e il bambino è il sole atteso che porta la vita. Disegni, codici. I vari disegni che si trovano nelle maniche della tunica della Vergine potrebbero essere una scala di codici degli indigeni. Si suppone siano una mappa della città del Messico. Nel lato sinistro si nota una figura di donna bianca, mentre nel destro una figura di una montagna che prende fuoco. Ciondolo della Vergine. Nella parte bassa del collo è posizionato un medaglione che è uguale a quello indossato dagli dei. Veniva portato all'altezza del torace o sul petto, a simboleggiare la propria anima che donava vita. Nel medaglione si nota un bordo nero. Al centro è rappresentata una croce. Scarpetta della Vergine. La scarpetta della Vergine si intravede sulla punta della luna. Il colore è simile alla cenere. L'angelo. L'angelo indica la comunicazione tra il cielo e la terra ed è il simbolo di San Juan Diego, l'uomo fedele e vero. Che ci insegna come arrivare alla Vergine Morena del Tepeyac. Quest'angelo ha ali simili a quelli dell'aquila, simbolo della Gran Tenochtitlan, l'aquila che divora il serpente. Ha le mani rivolte verso l'alto. Gli indigeni così rappresentano i loro dei. Con una mano sostiene il mantello e con l'altra la tunica. La simbologia è chiara, che illuminato da Maria vince il serpente e i culti idolatrici. Capelli dell'angelo. Gli indigeni, per distinguersi tra le diverse classi sociali, si rasavano il capo in maniera diversa. La caratteristica dei masesuales, gente del popolo, era quella di radersi il capo, gesto che significava essere meritato per il sangue di Dio. Ora tutti i battezzati erano rasati e facevano parte di qualche ordine religioso. Con questo particolare si vuole dire che il cattolicesimo non distrugge gli usi indigeni, ma ne trasforma il significato. L'angelo è illuminato direttamente dal corpo della Vergine, che si presenta in questo modo come mediatrice di grazia. Luna. La Vergine poggia i piedi sulla luna. Ella è il sole che danzando emana fertilità e vita attraverso le diverse fasi. La luna, Tenochtitlan, indica nobiltà che non schiavizza nessuno.